Wow. Potenza 10 watt. C'è qualcuno qua? Ci cu canale 10. Sei accusato di... C'è qualcuno qua? Attenzione, 10. Come ti chiami? C'è qualcuno qua? Io avanti. Avanti l'amico col bip. Aspetta, Natalie. Dimmi Antu. Io non ti potevo rispondere. Beh. Come ti arrivo? Guarda un po'. 95 Radio 5. E dove sei? Non sono a casa. Ma volevo sapere se era lo stesso segnale oppure più basso. Sembra che è aumentato leggermente. Cosa hai fatto? Sono buttato via quell'antenna. No, dov'è l'antenna? L'ho data a Franco e l'ha tutta cartucciata, l'ha messa male. Cazzo, ma avevi promesso che me la davi a me? Ma era tutta rotta, Antu. Vabbè, dai. Ma tu stanno nella buca di casa con le vostre maniere. Se sei quello che abbiamo passato qua, meglio la morte. Lo facevi di domenica, c'ero pure io. Non è questione che c'eri pure tu, no? Un macello, Antu. Addirittura abbiamo anche eliminato un tubo perché non andava bene. Figurati. Peccato. Ma purtroppo è così. Vabbè, là. Come sto uscendo? Bene? Cappa, benissimo. Tu come mi senti? Mi sento più bene delle altre volte. Forse ricevo meglio, va. Controllato. Segnale quanto? Non l'ho guardato, però la radio è 5 perfetta. Non ho capito. Allora, 9.10 sta arrivando qua. Santiago, 9.10, radio 5. Perfetta. Va bene, va. Quindi tutto a pezzi, Santenna. Tutti i radiali, mamma mia, qua. Poi mi entrava l'acqua perché avevano lasciato un buco scoperto e entrava da lì l'acqua. Vabbè, la facciamo prendere, va. Soltanto per questo. Il cavo era nero, ce l'ho dovuto buttare il cavo. Posso dare questo? Addirittura. Ehi, ce l'ho dovuto buttare quel cavo. Miserio. Sì, no, ma te l'avevo detto, mi va giù. Lo spezzone, no, così vuoi dire quattro lire. Io dico che la fassuti. Vai, bianco per me. Ehi, cappa. C'è qualcun altro all'ascolto? Diceva di essere... CQ10, c'è qualcuno in ascolto? E questo voglio dire... Chi è là? Chi è avanti? Mirro mi. Beh. Ciao Natalino, buonasera. Ciao già. Ho piazzato quell'antenna là. Come ti arrivo? Forte e chiaro. Adesso mi viene male guardare lo strumentino. Comunque ti sento forte e chiaro. Dio grazie, dai. Finalmente ce l'hai fatta. Io ho finito poco fa, sono crepato, sono il curico un po'. Quindi è cosa fresca? Poco fa, quindi. Bene, Meda. Com'è andata? Tutto bene, sì? È stato tutto di tuo gradimento? Installazione e tutte cose? Ci sono stati un po' di imprevisti, era più difficile di quello che sembrava. Vabbè, dai, ormai hai issato la tua serie di antenne, dai, adesso non so che tu ne hai buccio. Quando bassi mi duri. Bene, Meda, quindi ufficialmente la Game Master in questo momento è ufficialmente installata, così è. Ehi, ci ho dovuto buttare il 213 perché era nero, figura. Sono diverse strade di inchiostro, tutti stesi uno... Non serviva più. Frattico, cos'è, umidità è entrata? Se sto dicendo che era nero, che usiamo. Dai, rapazzi, dai. sarà fatto tutto canto, dai. Meglio così. Infatti me l'ho messo nuovo ormai. Bene fatto, bene fatto. Chiaramente ti avrà dato la mano qualcuno, giusto? E un po' la ramo. Dai, a me è finita la telenovela. Sì. Chi ti ha visto in telenovela? Era una rora. Sì. Dai, sembrava beautiful. E infatti. Aspetta, metto gli piccitos, vabbè, arrivi fondo scaghi, figurati tu, già la prima, quindi non fa testo il mio strumento, dai, prova a fare un passaggio. Guarda, mi sta arrivando 9,60 tu. Guarda, con l'RF gain tutto a zero mi arrivi 9. Figurati, vuol dire che fondo schiena ti arrivo. Sì, proprio sul fondo schiena. Vabbè, già, ti saluto che vado a curicarmi, che sono a pesci, c'è la schiena, ciao. Vai a recuperare, vai. Ci sentiamo più avanti. Ci sentiamo più tardi, già ce la metto io. Vediamo se c'è qualcun altro in ascolto, dai. Buonasera. Che? Buonasera. Gianni Rubaffetta da questa parte. Chi sei, Franco? Vedi, ciao Gianni, buonasera. No, stavo cercando di chiamare Nattarino, però mi sa che non c'è. È andato a riposarsi, dice che era stanco. È entrato poco fa al volo. Grazie, è stata una dura giornata. Ehi, Natali, ci sei? Ehi, dimmi, Fra. Ma bacia, mi dica che mi stai facendo il tutto. Sei arrivati 9:30, no? Che bene, ci sto arrivando. Ah? Ho detto bene, ci sto arrivando. Una bombetta, sì, va benissimo, va bene, di più. Andare in meda. Guarda, mi segnalo io adesso se va bene da te. Sì, infatti. 9:40. Differenza c'è? Non lo so quanto mi arrivavi prima, quanto ti arrivavo, cioè quanto mi arrivavi prima, te lo ricordi? Allora, tu arrivavi 9:20, adesso sei 9:30. Evidentemente qualcosa ha guadagnato. Non vedi cosa? Va bene, va bene, ok. Tu adesso sei salito da là? Vedia. E io ero coricato, l'ho lasciato acceso perché stavo aspettando a Marcolino, ma non mi ha chiamato. Vabbè, stazionari ha controllato, dai, vanno bene. Vero, non li ha controllati davanti a te. Capo è positivo, dai, già andava allora. Capo, aspetta un attimo che le controllo adesso. Un attimo. Confronto tra leader politici, aziendali ed economisti al forum di Davos. Di Russo. Di Russo, va bene? Yes, sir. Deve vincere la guerra. Ok, dai, meglio così. Bravo, dai, che vado a riposarmi 5 minuti, ci sentiamo più tardi se coincide. Ciao Natali e ciao anche a Franco, mi sa. Gianni. A Gianni, ciao già, che a te, dai, vado a fare un riposino. A Natalino come lo ascolti, bene già. Un figurone, gliel'ho già detto poco fa. Con l'RFG tutta passata mi arriva Santiago Nova, vabbè, ma siamo vicini. Vabbè, perché abbiamo montato l'antenna già stamattina, ho piazzato l'antenna lì. Ok, dai, va bene così, andava bene. Ciao a tutti. Franco, aspetta, quelli viti dell'antenna ce li ho io, mica qua. Vabbè, dai, già si recupera. Vabbè, mi sono dimenticato di prendermi. Ok, dai, portate, va tutto bene. Andava bene, ciao. Ci sentiamo più tardi. Ciao, Franco. Comunque sono qua quelli viti. Quando ti servono me lo dici e te le do. Cava di positivo, andava bene. Ciao, Franco. Alla prossima. Ciao. Gianni, anche tu stai andando via. Oh, sono qua, era acceso, vabbè, ho abbassato un po' il volume. Io stavo aspettando Marcolino Condor, che magari lui lo sa quanto gli arrivava, a vedere se c'è molta differenza, perché è più lontano di te. No, qua c'ha 10 dB di guadagno in più. Sì, non hai visto come ti è su Pavo, tu li ambienti attiffati. Io dubitico che. Ma tu ti ammazza quel capo, tutto nazionale, tutto marcio, ui. Vediamo se c'è Marco l'ascolto. Sicuramente ce l'ha accesa, però magari il volume è basso. O sta facendo anche lui il riposino pomeridiano. No, è fuori a fare la spesa. Ci siamo telefonati e mi ha detto quando rientra già mi chiama, ecco perché era acceso, rapido. Ah, ecco. Ecco, a fare commissioni. Oh, yeah. Quindi l'antenna era tutta pratica, Natali. Oh, yeah. Si mi dice di Buruaghi era di Rubiele, di Paresi, era. Ma guarda, ha pigliato. Tutto, se no, no. Se ti è andata bene, che vabbè, anche se la frase che no, non ho, forse sono state conseguenze agli apparecchi, dai. Visto come era il capo e l'antenna, si è andato di lusso. Adesso sto provando una cosa, Gianni, a vedere. Sono qua. Stavo guardando se è disturbato. Adesso non viene più la terminologia. Se stai facendo TV, dici. Infatti sto guardando e non gli faccio un cavolo al televisore mio, assolutamente. Quanto sei riuscito a farla svettare l'antenna dal tetto? Ma non lo so, adesso quando mi resto perché mi sono messo in disabili, scendo e la guardo, perché io ero dalla finestra mia mantenendo il tubo, tu non sai cosa ho detto, ero un bastardo, quindi da uno rubiamo al secondo piano, io e a freddo gli osso. Già me la ricordo la vecchia struttura, tutta particolare, dai, quindi mi immagino che smontaggio a montaggio sarà stata dura. Vabbè, quell'antenna è molto leggera, quindi poi senza radiali, tanto di guadagnato, dai. Ma il fatto che ce ne sono altri due sopra col palo, pesante era. Ah, dici le altre? Vabbè. Dai, l'importante è che siete riusciti nell'impresa. Sì, infatti. Comunque il tubo è 11 metri in tutto, e su sporge 5 metri e 50 in altezza. Dal cornicione scorge 6 metri. Ah, guai, 6 metri dalla base. Allora quel tubo in tutto è 11 metri. Forse di più di 11 metri. Ma vediamo. Quando scendo a vederla, io purtroppo quando l'abbiamo salita tutta su, già lo sai davvero, fra, quindi non potevo vederla. Adesso l'unica cosa è farti ancorare il petto da quello di sopra, no? Dall'altro, capito? Già detto, già fatto. Già legata te la su. No, ma non so se me l'ha legata, però ha detto già la facevo. Quello è importante, perché se no flette troppo di sopra. Che va bene. Comunque il segnale è buono qua. Arrivi benissimo. Ha detto che sono 5-4. Anda bene meno, va. La ricezione è meglio, capito. Adesso dovresti arrivare da tutte le parti. Speriamo di sì. A livello mondiale riceverei meglio, già sembra più silenziosa dell'altra. Ma c'erano stazionari, quelle antenne vanno bene. Se sono piattate bene vanno bene. Già osso. Quelle piattate ad opera d'arte, capito? Che regala. Quindi come si dai su cavo che ne avevamo di rabbia? E come si era Rubiele? C'era il cavo, era tutto rugginoso dentro. La massa era nera e il centrale era lo stesso. Il piano era tutto marcio. Insomma, a pagnomania era. Io non so come ti va a dire i cicli s'antenna, molto sinceramente. Ma anche lì non lo so. La bobina lì c'era un buco, quindi quando pioveva l'acqua entrava nella carica e creava stazionari a 1000. Ah, se pure il buco c'era. Allora, la carica strada perché era un buco. Vabbè, adesso non so se dalla finestra, dopo prendo il binocolo, vediamo se riesco a scorgere la punta della tua antenna, Nathalie. Guarda un po' bianca, via. Sì, guarda in quella direzione, dai, perché mi inganna sempre, vedo sempre l'antenna lì a San Donato, la moto varicoso, va. Ma non mi la metto, si chiamava. È buono, non lo so, comunque. Guarda a vedere se vedi la mia. Dopo prendo il binocolo e provo. Salgo in terrazza e provo a dare uno sguardo, dai. Vabbè, dai, io ritorno a farmi il riposino. Senza Marco già lo rispondo, dai, già lo sento. E ciao, che io chiudo, dai. Rientro dopo, ce ne ho voglia, se no domani. Ciao Natalia, ciao. Via, vado a voi, Ciao già, dai, ciao. Ci sentiamo più tardi se coincide, ok? Ciao a tutti. Pronto? Sono nella mare 126. Dime Paco, te copi. Claro. Sí, yo me quedo. Natalia, se sei ascolto, antenna avvistata. Scamata al volo, c'è la carica rossa e Region 3 degli elementi sono nere. Sì, sono 6 sul terrazzo, la vedo. Anche la carica hai visto? Affermativo. Ecco, ma cosa te ne sembra? Vabbè, adesso qua, chiaramente da qua la prospettiva, sai, sono tutti tinti, migliaia di antenne, però sono riuscito ho provato a guardare in quelle coordinate lì e l'ho trovata subito, dai. Bianca con i raccordi neri e la bobina rossa. Bene, Mera, sì, si vede, alla grande. Con il mio super binocolo, ti ho sgamato subito. Se non te lo dicevo non guardarmi. Vabbè, dai. Più o meno la direzione era quella. Adesso spunta, adesso svetta, dai. Speriamo di ricevere meglio. Mi sembra più silenziosa, Beh, viste le condizioni in cui eri, hai fatto un salto di qualità notevole. Di puro che tutti noi. Bene, Mera, dai. Ci sentiamo dopo. Ciao, ciao, già. Propaganda. Che palle questi spagnoli. Chi è? Ciao Gianni. Marco, sono tornato adesso con una spesa interminabile. Se sono stato 2 ore e mezzo fuori, più ho dovuto portarmi tutta la roba su, sono tutto in bagno di sudore, poi mi butto sotto la doccia. C'ho la testa in ebollizione, guarda. In macchina sono dovuto andare, ovviamente. Nicolino. Mi, Natalino. Allora, Natali, vediamo. Naturalmente con questo Smith, il presidente, 9.30 eri, penso che 9.30 sarai, vediamo. Guarda a vedere, Marcolino. Adesso sento anche la propagazione. Sì, Natale, il segnale è quello perché anche di più non va di più. Ascolta, rispetto all'altra, di quanti metri è più in alto? Non lo so, bisognerebbe vederla perché io ero dentro qua per mantenere il tubo. E poi mi sono messo in disabili, ma che la vedo. Dice che l'ha vista Gianni da casa sua, col binocolo. Ed è quella perché c'è la carica rossa. Ah sì, quella carica che c'è sotto, sì, colore rosso, perché tu hai l'originale, via. Bene, comunque già senti meglio, scommetto. Adesso come entreranno quelli di Polatore, Sorso, Alghero, comincerai a farti un'idea delle migliorie. Capito Natali? Minchia il caso. Oh, naturalmente Natali, io ho fatto il paraculo, ho messo la moto al posto della macchina, ho fatto la spesa, poi con calma torno, sposto la moto e rimetto la macchina allo stesso posto. Sotto casa, sotto, davanti al portone. Hai fatto bene. Comunque 9.40 sei arrivato qua. Allora guarda, qua ci avrò 3 watt, cioè quello omologato ne dà 3,7, poi ne perdo uno col famoso filtro. Rispetto a prima con lo smittere ha cambiato qualcosa, però guarda, senza i picchi, senza i picchi, solo la portante. 9.40, sì. Penso che hai guadagnato 10 di arrivi 9.40 invece di 9.30. Cioè con lo stesso smitter ho guadagnato 10 decibel. Sto usando il cappone. Sto guardando con uno smitter attendibile. Stazionario è vero, né qua e né su. Cazzo, avevo il cavo, tutto nero, l'ho dovuto buttare via, il 213. Il GL mi si è rotto, era verde, figurati. Sì, Natalia, già lo credo che non ricevevi nulla, e invece noi nel giorno abbiamo stagnato col vulcanizzante tutto il PL fino in cima, tutto stagnato, PL, anche siamo andati abbastanza oltre il PL, in modo che fosse tutto attenuta l'acqua. Va, compagno. Sta tenendo. Gianni, riprendi, che io mi devo dissettare. Ehi. Sì, poco fa sono salito su in terrazza, Marco, e ho preso il binocolo e la vedo proprio chiara, l'antenna è nata lì. Ma rispetto all'altra è più alta, sì. Sì. È proprio fuori, l'altra era proprio vicino a un pezzaretto. La carica, bene. Buono, quanti eravate a piazzarla? Vabbè, tu eri dentro, chi altri c'era? In quattro, c'era quello del secondo piano, io, Franco e quello che hai conosciuto tu a casa mia, mi ha dato una mano anche lui, e ho dovuto eliminare un pezzo di tubo, se no sarebbe stato ancora più in alto. Alleluia, Natali. Cos'è successo? Che vedo qualcosa? E cosa vede lì? Cosa vede? Sì, ma sì, a potenza bassa, però quanti volte stai usando? Familiari, per allora, cadavere, la moglie, 10 fa. 9 più 10, sì. Hai aumentato di 10 dB. Ma prima Natalino era 9 da te? Sì, sì, Santiago 9 con poca potenza. Si aumentava, allora arrivava 9-10. Adesso è 9-10 con 10 watt, però. Ehi, ha detto che il capo era tutto nero dentro e il PL era tutto un verde rame. Già lo credo che non riceveva nulla. Ma con il capo, per forza, lo so, cosa va a fare? Comunque c'era anche Carlo. Carlo, niente noti tu, vabbè che ti arrivavo a metà fondo scala anche prima, boh. Infatti, adesso l'unico attendibile è Claudio che è più lontano di voi. Sì, ma io quando ti arrivavo prima, quanto ti arrivo adesso, lì che tu devi vedere con me, non con quelli che hai vicino. E infatti quelli non fanno testo. Tanto ti arrivo io a te adesso. 9.10. Sì, da 9 a 9.10 sei passato, però mi devi dire quanto ti arrivavo io prima a te e quanto ti arrivo adesso per vedere se hai incrementato in ricezione. Sì, 9.10 oscillante. Adesso noi sappiamo per certo. Anche tu arrivi più forte di prima, mi arrivavi 9, dai. Lei prima. Cappa, va bene, allora va bene, ha incrementato, però rimane il fatto che quell'antenna devi uscire tutta l'albergo, tutta. Non è come la J-Pol che può lavorare a fianco al muro o a un'altezza bassa. Quell'antenna deve uscire tutta l'altezza, deve lavorare tutta, sta uscendo tutta. E lì la Gianni che ha visto anche la carica rossa, ha visto. Partecipi ai con binocolo. Esce tutta l'altezza adesso. No, Carlo, sì, confermo. Sono salito in terrazzo poco fa e. Ed è tutta fuori, dai, si vede la carica rossa e giunta dei segmenti neri, dai. Da questa posizione si vede tutta fuori, proprio tutta. Tutta la prova. Se Natale l'hai tirata tutta fuori, eia, ci abbiamo fatto altre due antenne, ce ne sono tre antenne. Una fatica che non ti dico. Cioè, sia in ricezione che in trasmissione, quindi va bene. Mentre quella che c'è a Carlo è tutta un'altra cosa, quella può lavorare sia attaccata al muro ad un metro da terra, sia a 30 metri di altezza, capito? Perché una 7 ottavi diversa. Ciao Carlo, buonasera, ho visto il tuo messaggio, va bene, ok. Buonasera Claudio, stasera ho collegato l'Isola Rossa, Bonannaro e Ozieri, però eravamo in banda laterale, capito? Arrivavo all'Isola Rossa, Santiago 7, quasi 8 e Radio 5. A Bonannaro e Ozieri arrivavo lo stesso, Santiago 7 e Radio 5 con 20 watt. E chi c'è all'Isola Rossa? Ma propagazione o qualcuno di passaggio? Perché non ce n'è cibo all'Isola Rossa. Ci ho lavorato per tanti anni io lì. Si chiama Enrico e mi sa che è anche un radioamatore, ma non è sardo, diciamo, anche se è sardo d'adozione. Gli ho detto di entrare sul 10 stasera in AM a vedere se insomma ci riesce a sentire, perché abbiamo fatto una prova in AM e lui mi sentiva anche in AM. Ma la propagazione che c'è propagazione a Santiago 7-8, io non penso che arrivi. Non penso che arrivi. No, non mi dice niente questo nome, vabbè, io manco da quella zona 4 anni, quindi però la conosco tutta, lì ci ho lavorato, ero proprio responsabile di quella zona, non ho mai visto antenne, non ho mai parlato con nessuno. Non lo so, vabbè, qualcuno magari che ha la casa estiva e ne approfitta quando viene per mettere l'antenna. Molto bene, molto bene. Per quello Franco stamattina l'ho chiamato e non poteva rispondere, no? Un testa di uccello, cazzo Natalino. Poteva rispondere e dirmi, guarda che sono da Natalino, sei venuto anch'io. No, c'aveva il telefono qui e non l'ha sentito evidentemente. Perché l'ho chiamato per ritirarmi quel cavetto e non mi ha risposto. Poteva dirmelo, che era lì da te, sarei venuto anch'io a dare una mano, capito? Sì, in quattro eravamo, dai, già l'abbiamo piazzata ugualmente. Cazzo, il cavo tutto nero, adesso sento anche la propagazione, prima non li sentivo, quelli che arrivavano meno di 7 non li sentivo. Che cavo ti ha messo Natalia? Il 213 ho messo, quello nuovo, quello dei cepaloni ho messo. E quell'altro era nero, completamente nero. E poi ti mando la fotografia dello spezzone, che ne ho tagliato un pezzo ed è tutto nero, sia il diritto che. Infatti sta uscendo molto bene adesso, bello limpido, fortissimo, anche come segnale, si vede che stia andando molto bene. Allora, io ho avuto un incremento analogo, prima ero 9,30 con i soliti 3 watt, no, scarsi, 3 watt utili, adesso 9,40. Conta che però, vedi, le colpe non erano tutte della Energy, c'era il cavo nero, il PL color rame, tutto ossidato era, non era solo l'antenna. Marco, ma voi siete vicino, cioè quando a me mi dite cose, mi fate dirare, incremento di cosa? Cioè incremento potete arrivare anche a fondo scala, no? Lui l'incremento deve avere con quelli che non riceveva, con Porto Torres, che magari riceveva basso, con me che arrivava 9, adesso 9 più 10, io che arrivavo 9 le arrivo 9,10, capito? E non può fare le prove con voi, siete vicino, cioè, cosa vuol dire da te a Natalino? Siete un tiro di schioppo, cioè siete tutti lì nel cerchio, non fa testo quello, assolutamente, non si vede mai l'incremento così. Eh beh, vabbè, un po' l'ha visto, sì, ma infatti gli ho detto all'inizio, i vantaggi li vedrà con Sorso, li vedrà con Platamona, con Protore, anche con Alghero forse, secondo me adesso riuscirà anche a sentire e arrivare Alghero. Eh beh, sicuramente, è un'ottima antenna quello. Però ti ripeto, l'incremento ce l'ha già perché io lo vedo, adesso la propagazione non le fa niente, prima se c'è la propagazione lo sentivo sotto, adesso riesce a passare tranquillamente, capito? Tutto lì. Sì, io stacco che vado in cucina, c'è anche Gianni il profeta in bianco, Gianni riprendi se ci sei ancora. Eccomi, eccomi, sono qua, tutto ok, tutto ok. Allora tu immaginati che prima Gianni il profeta era più forte di Natalino. Adesso Gianni lo profetta 6-9 e Natalino 9-10. Adesso non si può lamentare che se diceva sempre che era piccolo e nero. Adesso è più grande e più bianco. Io non sono vicino, ve l'ho detto già dall'altra, io non sono vicino, sono fuori Sassari 4 km e sono una zona molto alta ma negativa per la zona bassa di Sassari, capito? Quindi chi arriva qua 9-10 è un 9-40 dove ero prima, capito? Non ci sono dubbi su questo. Fabio, sì, è nata lì. Vi ho mandato la foto del 213, però col rame è pulita la massa, l'abbiamo pulita noi, però era nera come il dielettrico. Perché è entrata acqua, Natalia, è entrata acqua nel cavo, capito? È entrata acqua e quando entra acqua poi diventa nero. Diventa nero e perde la conducibilità, non serve più a niente, va a cambiare il cavo. Quindi se l'hai messo nuovo, anch'io ci ho messo i paroni, sia nella mantova che nell'antenna dei 2 metri. Quello dell'antenna dei 2 metri me l'ha dato Walter, 20 metri. L'altro invece l'avevo recuperato da Carbonati, capito? Sono degli ultimi cavi. Infatti, preciso. Perché io ho messo quello lì? Col cavo. Tu figurati che sento anche la propagazione, aveva ragione Gianfranco che sentivo sempre la propagazione, poi addirittura stazionarie Nisba. No, non me la stazionare con l'antenna, cosa accordi, una volta che la piatti no, non me la stazionare. A differenza della J-Pol che devi mettere la cordatura giusta, la misura che ti danno, quella c'ha le misure standard e quindi no, non ce ne bisogna accordare niente. Vai Carlo, riprendi. E quindi Natali, dopo tanto ce l'hai fatta a piazzarti questa antenna nuova. Va bene, meglio così. Auguri a sentirne molte di stazioni, vicine e lontane. Comunque qua arrivavi sempre fondo scala e continui a essere così. Ovviamente migliorerai per tutti gli altri collegamenti, capito? Tanto siamo anche, se vogliamo, vicini da qua, dai, in linea d'aria non è poi così lontano quella zona, capito? Non lo sapevo che l'avessi piazzata oggi, dai, hai approfittato della bella stagione, anzi oggi non era neanche calda, per cui, capito, adesso ti arrivo sempre uguale io, vero Natalia? Non lo so quanto mi arrivavi, però adesso sta arrivando a 9:40. Già va bene, già va bene. Guarda la fotografia di quel cavo, anche la massa l'ho pulita io, no? Se no era nero come il dielettrico. Guardati la fotografia che te l'ho mandata, Carlo. Aspetta che la visualizzo, Natalia. Era nero, la punta proprio si vede, se era così dentro per forza, ma cos'era un RG58? No, 213 era, anche la massa era nera, l'abbiamo pulita noi al coltello e la vedi così per quello, se no era nera anche la massa, la calza. Mamma mia, ma è quello spezzone che ti avevo dato io, hai usato un altro? No, quello che mi ha dato tu, quello era nuovo. Bastato come metratura, sì. Certo che è avanzato. importante, dai, sono contento se l'hai usato, perché a me era avanzato quello lì ed è un ottimo cavo, e anche io c'ho quello, capito? Infatti già si è vista la differenza, caro. Sentivo qui i bassi, Santiago 5 li sentivo lo stesso, la propagazione. Aveva ragione Gianfranco che sentiva sempre la propagazione, perché è un po' silenziosa come antenna questa, capito? Lo credo. Comunque andata lì con quella antenna lì, adesso il cavo nuovo e l'alimentazione e tutto, puoi mettere la portante a 20 watt, metti in power, puoi mettere la portante a 20 watt e la lasci stare così, tanto quella non ha bisogno, non va più, nel senso che non è che più scalda più va, quello è un tre conversioni la radio, quindi non è come il 140 che più scalda più sale, la metti a 20 watt e la lasci a 20 watt, sia a freddo che a caldo lei sempre 20 watt tira. Ancora un attimo con la metti lì così, le faccio schiattare. No, ancora non ce la fai più, no. E vai, ma può fomenderci. Vai, prova Natali, mettilo a 20 watt, lo lasci stare a 20 watt fissa. Aspetta che stai spegnendo il televisore, che sennò si sente. Stacca il microfono, cosa devi spegnere la televisione? Sganciati il microfono e usa il send. Che canto d'arrivi Natalino, con l'antenna nuova. Adesso sta salendo la potenza, perché era bassa di potenza, adesso te lo dico, aspetta. Eia. Adesso riaggancia al microfono. E beh, come va adesso? 9 più 20, sì, ammazza di nevaria. 9 più 20, segnale uno dei più forti. Da casa tua non ce n'è più, e manco col lineare ce la fai adesso, te l'avevo detto. Anche una ottima quella, io mi ricordo quando abitava Elio Piuma lì che ti arrivava una cannonata. 9 più 20 Natali, con 20 watt, 9 più 20, lascia stare così perché c'è un segnalone qua, un segnalone, non vicino a casa tua, no, dato da me è un segnalone. Me lo posso immaginare, voglio sentire a Roberto, che a Roberto lo stesso è lontano a confronto a dove sono io adesso, a vedere a quanto io arrivo, se ne accorge anche lui. Prossima settimana sarò sul senso. Ehi, attrezza adesso, perché il tuo segnale è 9.20 quando attacchi il lineare da casa tua, 9.10 liscio, quindi Natalino arriva a 9.20 senza amplificatore, però è a 20 watt, è a 20 watt, se lo avesse mettere a 50 watt sono cazzi. Ah, hai sfidato a zio Antonio, cazzo. Io non ti ho sfidato, io ti ho detto che l'antenna non stava funzionando bene, e infatti gli ho mandato a Claudio com'era il cavo. Addirittura adesso sento anche quelli bassi bassi, figurati. Natali. Cappa, te lo so già. Vabbè, qua non ce la fa. Un attimo. Avanti chi chiama Natalino. Da 7 a 9 scarsi. Cappa, grazie. Santiago 9, associa, fate lo conto, ciu ciu. Prima arrivavi 6. E qua ha fatto da 9 a 9, 10 con 10 watt. Ha messo a 20 watt, che è una potenza minima, anch'io ce l'ho a 20 watt la radio. E arriva a 9 più 20, da 9 a 9, 20. Cosa ride? Cappa, ha incrementato un bel, ha incrementato. Vedi, questi sono i segnali che devo tenere in considerazione, perché Franco è lontano, è inutile che mi mettano quelli vicini, ma arrivano a 9.60. Ma te l'ho detto, non serve a niente, tu conto lì, puoi chiedere a me, a Franco, a Eugenio, a Porto Torre, se non te lo mandi a Gianni, un profeta, Gianni Pio Roma, a Marco, a Antonio Bombolo, non serve a niente, puoi chiedere a Giulio a vedere che si già lì punti, è lontano, vabbè, si è incrementato, però qua hai un incremento di 20 dB adesso, 20 dB, sono tanti, Se arrivo 9 a Sorso, ma a Franco, e arrivavo a Santiago sì, ho incrementato forse sì. vai, Goccomane. Mi, anche tu, Goccomane di Franco, mi, California, cava cava. Ciao Claudio, buonasera. Quando è che viene a prendere con lo spezzone, Claudio? Ah, c'è un guasto, cazzo, ti ho chiamato stamattina, ci rispondevi, ci sarei venuto a darti una mano. Non mi hai risposto. Perché c'avevo il telefono in macchina, non ti ho risposto, poi ho visto la chiamata. Perché il telefono l'ho lasciato in macchina, ho detto, cercate di sempre, già vendimi. Ah, gaffa gaffa, comunque avete fatto un bel lavoro. Allora, Nathalie, stai attento a quello che ti sto dicendo. Tu ti rendi conto dove è Franco, che è molto più avanti, molto più vicino a me, hai lo stesso segnale suo. Fatti un conto. La bomba ci scende, Nathalie, complimenti veramente, ottimo lavoro avete fatto. Ottimo lavoro, mi auguro, ma ti ho fatto, vuoi dire? Fra, bastava rispondere al telefono, io che cazzo ne so che stavate montando l'antenna. A me non mi ha detto nulla nessuno. Io stamattina ero in giro, tra l'altro avevo anche la macchina, quindi ti ho chiamato presto, stavo prendendo il caffè al Trisbar alle 9, quindi da Gigi Amato non mi ha riposo. Se mi rispondevi, ero lì vicino, sarei venuto a dare una mano anche io, peggio mai te. Sono che ha guadagnato un bel Claudio, la 9.20 che mi arrivava, mi sta arrivando 9.40, quanti 9.40 al caso sta arrivando. Vabbè, ma voi siete vicini, l'incremento l'ha fatto con me, con Sorso e sicuramente anche con Porto Torres, perché quella zona per Porto Torres è micidiale, fortissima. E comunque già va bene, stazionaria non ne ha niente, neanche l'accordatore entra in funzione, penso a tutto. Beh, chi sono buffoneggi, se stazionaria non viene non entra in funzione, chi sa radio. È normale, anche la T250.000 è sempre inaccordata, in tune, però se non ci sono stazionari è sempre fermo, capito? Va bene, avanti per chi tocca. Carlo, riprende e fai girare. Sì, buonasera anche a Franco. Già, sì, buon lavoro quello. Adesso così Natalina sarà più felice, capito? Senza stazionarie alte, capito? E può spaziare con quell'antenna perché non ha neanche problemi di taratura. Già è un'ottima antenna comunque quella. Poi se l'hai sollevata Nathalie, diciamo che arriverai anche più lontano. Avanti, chi c'era? Marco? Ho sbagliato di Antonio. Antonio, sì, giusto che eri entrato anche tu. Antonio, adesso c'è l'antenna superiore alla tua. Ma io già lo sapevo che succedeva questo. Allora devo buscarmene un'altra, va. Lo tiro su di palo, tanto c'ho il palo grande. Tiro su di brutto. E mo so cazzi pure. No, non ce la farai mai, no, non ce la fai a guadagnare quello che guadagna quell'antenna tu. Quell'antenna lì è inferiore, ma inferiore di molto alla Game Master. Game Master è una 5 ottavi, ma è una 5 ottavi con le contropalle. È in fibra di vetro, capito? In vetro resina, una massa gubba. Io ti ho preoccupato una sera. Ma ok. E io mi pongo la cosa, la... come ti diciamo? Chissà che vai tu, la 7 ottavi, poi voglio vedere se ridiamo. Io la 7 ottavi magari già ce la fai, ma con quell'antenna no. Sono sicuro di no. Vabbè, comunque. Fatela bravi, già ci sentiamo tutti, non c'è bisogno della bottenza. Avanti, Gianni Lubrefetta. Eccomi. Vabbè, succede. Ciao Antonio. Oioia. Dai, siamo tutti contenti e felici. È finita la telenovela. Va tutto bene, dai. Adesso siamo tutti più tranquilli, compreso Natalino, dai. Nostra sfida. Io te sono contentissimo perché c'è una radio che funziona molto bene, c'è un bel impianto, adesso va via questa gaggata di antenna, adesso c'è l'impianto nuovo, tutto nuovo e finalmente riesce anche a godersi l'antenna, capito? E soprattutto la radio. Ho fatto anche la doppia alimentazione, come deve essere, adesso è di lusso. Ma infatti adesso c'è un buon impianto. capito? Quindi almeno te lo godi, puoi fare ascolto, perché con l'antenna puoi fare ascolto in 40, in 80, la puoi usare in 10 metri perché la sto usando io ed esce fortissima, io faccio dei bellissimi collegamenti in 10 metri, capito, con la GPOL, bellissimi collegamenti, perché risuona da tutte le parti, quindi quella lì che è simile alla GPOL, anche se una 5 ottave riesce a farla andare benissimo da tutte le parti. Allora posso ascoltare come si deve. Se quelli che arrivavano a Santiago 7 non li ricevevo perché c'avevo 7 di QRM. Ma giù ricevuto chi ti arrivi in Santiago Zinca, vai da cante silenziosa. No, non c'è l'antenna quella, non c'è l'antenna. Secondo dove è montata ti dà delle ottime soddisfazioni. Non è un'antenna da montare a cielo aperto come ce l'aveva Gianni, perché è una posizione strategica quella per il vento. Però dove l'hai montata tu che è riparata, che fa bene? Manca non ha da antenna. E infatti, vediamo come va, va. Io vi saluto, mi rimango un attimo in QRX che sto facendo cosa al computer. E guardate come tirare un cavo, Claudio, sta giocando dalla fotografia. Raggio Vito, sì, da schifo veramente, da schifo, Margatramo, per carità, già ho detto che non c'avevo ricezione e trasmissione. No, ma quel cavo messo ai paloni è buono, ce l'ho io, guarda, non mi ha mai creato problemi, stazionari è zero da tutte le parti. Va bene, Franco vuoi entrare? Franco di Sorso? No, Franco Camomilla. Oh, Galifo. Ma sto facendo cosa qua? Dai, continuate voi, vi ascolto. Ehi, Galifo. Ehi, Cocella, dai, riprendo io. Sì, il cavo era tutto nero, Claudio, per carità. Poi nella bobina c'era un buco, quindi come pioveva andava a finire tutta l'acqua dentro la carica. Capito? Scolava sotto il PL. C'era il PL tutto marcio. E perché cazzo quel buco andava siliconato o vulcanizzato, non ce ne deve essere buchi, capito? Non ce ne deve essere di buco. Non lo so, io no. Infatti ve l'ho detto, strano questo buco qua. Vabbè, comunque in ogni caso l'importante è che piazzata almeno ha risolto i problemi. Fatta, non ci pensa più. Ci ha dato una mano anche Cesare, quello di su. Oh, risuscitato, eh. L'ha detto, io faccio una mano, tieni, ma là, e l'ha convinto, è salito su, ha tagliato, ha fatto, ci ha dato una mano a portarla su, dalla casa sua, capito? Ha tagliato una mano, ha detto, pare che dei bacchi di sigarette, così te lo tieni tranquillo. Sì, ma infatti, non è cattivo, è che è un po' arrogante, nel senso che... non sa neanche lui se è carne o pesce, capito? Però già è... se lo già è bigliato, magari già è bravo, eh. Va bene, Bomboli! Cazzo, Bombolino demoralizzato, grazie che Natalino è più forte, no? Che bobo! Vabbè, si sapeva che c'era più potenza con quell'antenna lì. Ma io me ne sono accorto da quando è entrato. Ha guadagnato 15 dB, qua. Ed è un bel. Tu sei vicino e io sono lontano. Io sa se non lo vedo, già lo sai, fra sei venuto qua, io sa se non lo vedo. È già troppo quello che faccio, capito? Perché sono alla vallata. Sono in alto ma c'ho la vallata davanti, quindi mi copre un po'. Perciò da 9 arriva 9 più 10 prima, con 10 watt, porta 20 watt la bodega così sa radio e arriva 9 più 20, quindi penso che sia un ottimo segnale. Sta guardando un sito qua, un tipo di Cagliari stava vendendo un 140, nuovo, 300 euro lo stava dando. E già l'ho visto, l'ho anche contattato già. L'ho già anche contattato, ho detto che c'ha degli agganci vicino a Cagliari, se non lo dà me lo fa sapere, perché io c'ho uno che mi sta cercando un 140, però il mio io non glielo do perché è nuovo quanto è quello, e poi uno me lo devo tenere io il 140, se no poi vado alla ricerca io e non è troppo. Questo era il mio, mi è rientrato, è nuovo, sia frontalmente che il case, tutto nuovo e funzionante, lo sto usando. Perciò non lo voglio dare. E allora gli ho detto, già te lo procuro uno. Mi ha mandato anche le foto, sì, è nuovo, però io la cosa che non mi fiderei mai per l'esperienza che ho dei Kenwood, lo devo provare, capito? Perché anche quello di Massimiliano era arrivato splendido, splendente, nuovo, luccio, raggi attaccato, picchi negativi, Smith era casino, potenza che non andava più di 30 watt, tutto incasinato era. Ho dovuto aprire il mio con la lente, piano piano, ci ho messo tre giorni segnandomi tutto con la fotografia, e ho messo tutte le resistenze variabili come da origine, tutte girate al contrario. Me lo posso immaginare. Vabbè, comunque c'è bene, ti sento bene qua. Arrivi bene, sì, mi uscio, vabbè. Io sto trattando con 10 modulati, picchia quasi su 50, E questo c'ho 20 watt modulati, con la T250 sta dando 60 watt di picco, da 20 a 60. E c'è una ricezione fantastica questa radio, perché è nuova, non è mai stata toccata, capito? Chi l'ha data, l'ha usata 4 volte in ricezione, e poi l'ha messa da parte, quindi era l'ultima che avevo comprato, adesso non mi ricordo a chi l'avevo comprata, ma è nuova, sia il frontalino, che sia l'avanti, che tutta nuova anche dentro, è perfetta. Avanti, lo prefetto, fai girare per Carlo. Eia. Vabbè, adesso stiriamo la nuova graduatoria con gli aggiornamenti. C'è anche Marco Conner in parcheggio, vabbè, dai. Avanti Carlo, magari lo rilasci tu. Volevo chiedere a Franco, visto che l'ha aiutato lui a Natalino, ma il tubo telescopico l'avete messo, Franco? Penso di sì, Carlo, è chiaro, se hanno messo le trappe al muro l'hanno fatto telescopico, e se no come hanno fatto a tirare lassù? È giusto, perché quello poi è utile nel caso la devi riportare giù per qualsiasi problema, capito? Perché mi sa che lui aveva un tubo fisso invece prima. Ehi, Massimiliano Bulldozer, buonasera. Sì, ebbè, l'ho messo io quel tubo, dov'era quel tubo, l'ho messo io lì dentro, capito? Quindi già lo so, io e Massimiliano abbiamo fatto il lavoro. Adesso però è messa la staffata col telescopico, esce tutto fuori dal palazzo, ti ho detto che è incrementato da 9 a 9 più 20 qua, segnale, guarda, tu sei quasi 9 più 30, fatti il conto, dove sei tu, e ti vedo, a te ti vedo, è il segnale più alto che ho, tuo, quello di Roberto, e lui è appresso. Mi sembra che sia lo stesso livello di Antonello Alessio, se non è anche più alto. Devo vedere quando entra Antonello col capo adesso, perché Antonello c'è un ottimo segnale. Avanti Massimiliano, buonasera. Massimo. E qua ci sono io. Buonasera a tutti, sentite, no, che non più grosso. E già ti ho sentito, ciao Massimiliano, buonasera. E Antonello, tu sei grosso da in Chivi, da lavoro, da là, se non attacchi non sei molto grosso. Vabbè, è più lontano, cazzo, grazie. Lo so, io ti sto dicendo quello che devo dire. Da lì, da dove sei adesso, sei quanto è Natalino, 9 più 20, con quella radio lì, capito? 9 più 20, abbondante anche. Però da casa tua sei più basso di Natalino, sicuramente. Se non attacchi, se attacchi forse siete alla pari, non lo so. Se non attacchi KK a 20 watt e 20 watt, penso che arrivi più forte a Natalino. Ma è la mania della voce, tutti i voci senti, Mi ha messo l'antenna nuova Natalino, gatto, con un segnale allucinante. Da Santiago 9 a 9 più 20 è passato. Ma qua era 9 quasi 10, beh, adesso non c'è in radio. Forse sta studiando, non lo so quanto ti arrivava prima. Da Sorso arrivava 6, adesso è 9, arrivi più forte di me, su. Kappa, ok, comunque là, saluto Carlo, saluto Antonio Bombolo, poi non so chi c'è ancora. Massimiliano, buonasera, già hai letto i miei messaggi, no? Violetti, ti ho risposto, è tutto Rogero, capo a Brioscia. Va bene, che sabato lo richiamo e ci mettiamo d'accordo così. Beh, tranquillo che tu sei in una botte di ferro. Io sono così sicuro, guarda, che con neanche 50 euro con l'arredo tra l'altro a posto. Sì, perché è un peccato così abbandonarla, è nuova nuova, è anche lucida quella radio, Gianni la puliva col pennello tutte le settimane e quindi lui era demoralizzato e allora l'ha lasciata qua a me. Ma non si deve demoralizzare Gianni, l'errore che ha fatto, ma non perché l'ha data a te, no, non ha ascoltato quello che gli ho detto io, Massimiliano, se quella radio la metteva in macchina, ok, la metteva in macchina, la portava ad Albino, tornava nuova come il giorno che l'ha comprata, però ha preso una decisione e non è colpa di nessuno, se ne è voluto disfare, va bene così, capito? Va bene così, però quella radio se l'avessi avuta io, io l'avrei messa a posto, perché è così, l'avrei portata ad Albino, una passeggiatina, l'avrei magari anche accompagnato io e sarebbe tornata come nuova. Vedrai che già ritorna nuova, adesso vediamo, già vi tengo aggiornati poi come si mette a posto, dai, così lo dirò anche a Gianni. Ce la fai sentire a Gianni, poi le fai venire il magone. Te la rivende dopo 250 euro. Infatti, una volta che è aggiustata, sì. E gli ho detto stamattina te la compri la mia, così com'è, ti do la radio con l'amplificatore dentro, tutto, l'MB più 5, 300 euro, ho detto che non li spende lui 300 euro per il Galaxy, cazzo, 200 euro di radio, 80 euro di legnare, 20 euro cazzo di lavoro e un microfono da tavolo di lusso suo, che va bene, cazzo gratis. Ma cos'è il turbo? No, quella radio lì, no, per come è fatto adesso ed è fiammante, nuova, con l'MB più 5 non esce meno di 300 euro da qua. Tenendo conto che poi stamattina gli ho detto che lui mi ha dato una scassata, non funzionante, a 100 euro, cazzo, che viaggio di vai io? Vai zicchia. No, Beto, ma cos'è il Galaxy Turbo? Io ce ne ho avuto uno, ne ho avuto di quelle. Poi a me no, cioè era il periodo che poi stavamo dando poco, eccetera, eccetera, a me non piaceva. Era un barragione, era e l'abbiamo dato. Io lo so, te l'ho fatto vendere io, l'aveva comprato Antonello Pomponio da te. L'aveva comprato Antonello Pomponio, quindi già lo so, l'ho detto io di prenderla, perché so che era nuova. No, questo non è un Galaxy Turbo, questo è un Galaxy Saturn, con dentro l'amplificatore, tutto bello allineato, senza bisogno di abbassare la potenza, tira la potenza, sei Saturn o non sei Saturn, quello è fatto con le sonde, allineato con le sonde, messi gli strumenti, taratura interna, senza spezzoni, tutto diretto, tutti lì sul pulsante e lui c'ha 100 watt e non te ne accorgi neanche perché la modulazione rimane bella, pulita e chiara. Ho capito. Sì, no, è fatto, già ho capito. Perché esisteva il turbo, mi ricordo, che pompava voce. Adesso se riesco a buscare il capo grosso, ci metto il capo grosso, perché c'è avuto sensazione questo, hai capito, se alzi un pochettino più di potenza si blocca il computer, a me sta quella scoppiante, capito, li metto quello e non disperde più e non dà più problemi. Chi è che c'è sotto Antonio? Lo più grosso, a chi problemi vai? Offre da faccia vai. Allora, gatto va giù, un bel. Gatto, e da te io offre da faccia. L'inverno va giù, offre da faccia, va giù gatto. Ah, oh, va bene, era giusto per salutare l'Ubrefetta. Ciao Massimiliano, buonasera. Ciao l'Ubrefetta, tutto a posto? Ehi, alla grande, un figurone. Ehi, allo gioco, vabbè, non c'è bisogno di dirlo. Cosa c'hai, magone? Un figurone, ho detto. No, pensavo avessi un magone. Soldi ne hai, ce l'ho, l'Ubrefetta. Non t'ho capito, cos'è? E cos'è, eh? Ho detto, soldi ne hai, appresso. Magari. Sì, vabbè, ho per un paio di birrette. Ah, quello sì, ha voglia, non ci sono problemi. Ok, no, allora sto salendo.